giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I saldi di fine stagione attraggono triestini e clienti di oltre confine, anche se le continue promozioni online erodono la capacità di spesa. Il rientro a scuola dopo i crolli degli intonaci è avvenuto a dicembre in due plessi scolastici triestini. I liceali del Petrarca potranno rientrare dal 7 gennaio nella sede di Via Tigoro. I 200 alunni della scuola di San Giusto invece saranno divisi in due scuole. Uno scuolabus agevolerebbe le famiglie. Il comune di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell'impianto di atletica di Paderno dal valore di 430.000 euro. 37 primari dell'ospedale di Pordenone in una lettera esprimono la preoccupazione per il depotenziamento della chirurgia oncologica nel Friuli occidentale a favore di una centralizzazione a Udine. Mercoledì un incontro con l'assessore Riccardi sul piano oncologico. Oltre 1.800 incontri di scherma al giorno sulle pedane allestite nel quartiere fieristico di Udine per il trofeo Alpe Adria, valido per la tappa della Coppa del Mondo Under 20. Calcio in Serie A, l'Udinese inizia l'anno nuovo questa sera in trasferta a Verona, Console ufficialmente in difesa. In Serie C la Triestina caccia di punti in classifica, il Rocco contro la Clodienza alle 15 con l'attacco rinforzato dal nuovo arrivo Udà. Parte oggi la 10ª edizione della Corsa della Bora, il tracciato più lungo è su 105 km, quello più breve su 5. Gli organizzatori pensano a un numero chiuso dall'anno prossimo. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Ciocchi. In apertura ai saldi che partono con il piede giusto anche nei centri storici. Le vie dello shopping a Trieste si sono riempite già dalle prime ore della mattinata. Il servizio. Nonostante le basse temperature, già dalla mattina presto sono in molti per il centro di Trieste a guardare le vetrine dei negozi e tanti anche a fare i primi acquisti. 307 euro a famiglia, secondo Confcommercio, è la spesa media, ma c'è già chi stamattina ha speso di più. I negozianti sono ottimisti, anche se, come sempre, temono anche in questa occasione la concorrenza del commercio online. Sentiamo la voce di uno di loro. Ci aspettiamo affluenza da parte della clientela, sia quella tradizionale, sia l'autoctona, sia gli stranieri. Contiamo molto anche su una clientela straniera. Siamo pronti con offerte interessanti, le tipologie dei prodotti già sono state viste da molti clienti anche nei giorni passati, giustamente si aspetta oggi perché oggi partono ufficialmente i saldi e gli sconti per tutti. Come sono andate le vendite finora nel periodo di Natale? Ma le vendite sono state abbastanza altalenanti, abbiamo avuto dei picchi in alto e abbiamo avuto anche delle profondità. Nel complesso, sostanzialmente alla fine, i numeri sono rimasti quelli, con qualche piccola eccezione o in più o in meno, ma grosso modo è quello. Diciamo che la cosa che notiamo è l'alternanza di mancanza di continuità. Una volta avevamo continuato gli incassi anche vedendo gli storici, oggi purtroppo non è più così, ma è il bello di questo lavoro. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La sede del liceo Petrarca di Via Tigoro a Trieste è stata messa in sicurezza dopo il distacco di una porzione di intonaco avvenuta a dicembre durante le lezioni in cui è rimasta anche ferita una studentessa. L'ente di decentramento regionale EDR, attraverso una ditta incaricata, ha provveduto a risanare la parte distaccata e la controsoffittata in modo da mettere in sicurezza l'aula in questione. Alcuni ambienti rimangono però ancora da sanare, tra questi anche l'ufficio della dirigente scolastica e un'aula al quinto piano. Gli studenti di quest'aula saranno dunque trasferiti in un'altra aula dello stesso plesso, in modo che le lezioni per i 400 studenti riprendano normalmente dal 7 gennaio. Saranno invece trasferiti 200 bambini della scuola elementare di San Giusto di Via Tristino, dove sempre a dicembre c'è stato un distacco dell'intonaco. Gli alunni delle prime e seconde classi dal 7 gennaio faranno lezione nella scuola Biagio Marin di Via Marco Praga a Servola. I ragazzi che frequentano le terze, quarte e quinte saranno ospitati invece nella sede centrale della scuola in Via Svevo. Una soluzione che preoccupa in particolare i genitori che hanno più figli e si ritroveranno a dover accompagnare i bambini in due scuole diverse negli stessi orari. Un'opzione al vaglio dell'EDR è l'istituzione di uno scuolabus che risolverebbe le preoccupazioni logistiche delle famiglie. Il Comune di Udine ha programmato interventi al campo d'atletica d'Aldana Paderno per un investimento di 340.000 euro che include iniziative come l'eliminazione delle barriere architettoniche, una nuova palestra al chiuso e il rinnovo del locale infermeria. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tra i lavori principali, la riconversione dell'ex alloggio del custode in una palestra al chiuso con nuovi servizi igienici e una rampa d'accesso per persone con disabilità. Punto fondamentale, la riqualificazione del locale infermeria. Saranno ricavati un nuovo ufficio e nuovi spogliatoi, utilizzando anche la zona precedentemente adibita a magazzino, con un rinnovamento completo dei pavimenti e l'installazione di un controsoffitto. Tutta la struttura sarà dotata di un nuovo impianto di condizionamento e verranno aggiornati gli impianti elettrico e idrico-sanitario. Anche le tribune saranno interessate da importanti lavori. L'intonaco esterno sarà completamente sostituito, mentre la postazione dei giudici sarà dotata di una nuova pavimentazione drenante, ideale per garantire la sicurezza e l'estetica dell'impianto. In merito alla sentenza del TAR che richiede alla Regione il riavvio dell'iter autorizzativo per la cabinovia per mancanza della compatibilità urbanistica, l'assessore all'urbanistica del Comune di Trieste, Michele Babuder, assicura che la variante 12 del piano regolatore comunale verrà riproposta in consiglio presumibilmente tra fine gennaio e inizio febbraio. Proprio la mancanza della variante, con inclusa la localizzazione della cabinovia, è stata il motivo fondamentale per il quale il giudice del TAR hanno accolto il ricorso. Secondo Babuder, tuttavia, la decisione del TAR non inciderà sull'iter, lasciando alla Regione la possibilità di riavviare i procedimenti per il rilascio della concessione oppure di sospenderli fino all'entrata in vigore della variante. In primavera il TAR si esprimerà su altri 3 ricorsi riguardanti le questioni ambientali del progetto della cabinovia. 37 primari dell'ospedale di Pordenone, in una lettera, si sono espressi preoccupati per il depotenziamento della chirurgia oncologica nel Friuli occidentale a favore di una centralizzazione di Udine. Mercoledì è previsto un incontro con l'assessore alla salute Riccardo Riccardi sul piano oncologico. Una lettera firmata da 37 primari dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone ha scatenato un acceso dibattito sul piano oncologico regionale. I medici denunciano il rischio di un depotenziamento della chirurgia oncologica del Friuli occidentale, accusando la giunta regionale di voler favorire una centralizzazione a Udine. Il dibattito si intreccia con l'ipotesi di un accorpamento tra l'azienda sanitaria Friuli occidentale e il CRO di Aviano, alimentando anche tensioni nella politica, soprattutto in casa Fratelli d'Italia pordenonese, che chiede più tempo e sarebbe contraria all'accorpamento. L'assessore regionale alla salute Riccardi incontrerà i medici firmatari mercoledì a Trieste. Per Riccardi è necessaria una riprogrammazione che deve passare attraverso una chiara distinzione tra ospedali UP di macroarea e SPOC, quelli periferici, senza perdere di vista l'elemento della prossimità territoriale. Questo elemento per Riccardi è fondamentale per garantire ai cittadini la più alta probabilità possibile di ottenere i migliori esiti di cura, una condizione che mal si concilia con le singole rivendicazioni territoriali, a volte professionali, le quali continuano ad essere un ostacolo per arrivare ad una riorganizzazione del sistema sanitario, così Riccardi. Per Nicola Conficoni, consigliere regionale del PD e candidato sindaco di Pordenone, è necessario un confronto trasparente, accusa il centrodestra di aver indebolito la sanità territoriale. Marco Putto, consigliere di Patto per l'Autonomia Civica FVG, esprimendo preoccupazione per il piano che potrebbe sottrarre a Pordenone le chirurgie oncologiche d'eccellenza, denuncia che i professionisti sono stati esclusi dalla stesura del piano e la necessità di una riorganizzazione più equa. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Circa un quarto dei lavoratori dipendenti in regione lavorano per una multinazionale. Si tratta di datori di lavoro che hanno spesso sedi all'estero e di conseguenza pagano le tasse fuori dall'Italia, sottolinea la CGA di Mestre. Danno impiego a circa un quarto della forza lavoro della regione le imprese multinazionali italiane o straniere attive in Friuli Venezia Giulia, secondo quanto calcolato dall'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA di Mestre a partire dal rapporto Istat con dati del 2022. Sul territorio sono infatti circa 95.000 le persone attive in imprese che possiedono filiali in più parti del mondo, a fronte di un bacino complessivo poco al di sotto di 380.000 addetti. Rispetto alla media nazionale del 20%, le cifre collocano quindi la regione al terzo posto in Italia nella classifica del numero di persone operanti in gruppi multinazionali. Prima in Italia la Lombardia, con il 27%, seguita dal Piemonte al 25,3%, fanalino di coda la Calabria, in cui solo il 7,4% dei lavoratori è parte di aziende presenti in diverse nazioni. In regione i numeri sono significativi anche dal punto di vista del fatturato. A fronte di un sistema produttivo territoriale totale di 96,7 miliardi di euro, l'apporto delle multinazionali è di 48,1 miliardi, cioè poco meno della metà. Anche qui si tratta di cifre più alte rispetto alla media nazionale del 45% e che posizionano il Friuli Venezia Giulia al quarto posto, dopo il podio del Lazio con il 67%, della Lombardia con il 52% e della Liguria con il 51%. Alle 12.40 il meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso, le temperature registrate poco fa, Trieste, Gorizia 7 gradi, Pordenone 3, Udine 6, Tolmezzo e Forni di sopra 0 gradi, Tarvisio meno 4, Sappada meno 5, Piancavallo meno 2 gradi, sullo Zoncolan meno 4 gradi e mezzo, sull'Ussari sotto di 6 gradi, a Grado 6 e a Lignano 5 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, per questo pomeriggio il cielo sereno, poco nuvoloso. Nuvoloso per velature. Domani dalla costa alle Prealpi giornata umida e piuttosto fredda, con cielo da nuvoloso coperto e possibili foschie. Dal pomeriggio saranno possibili deboli piogge sulle zone orientali. Sulla zona montana, specie sui settori più interni, in quota cielo variabile con lo zero termico, sempre attorno ai 600 metri di quota circa. Il ciclista Jonathan Milan, bronzo nell'inseguimento a squadra alle Olimpiadi di Parigi, e il compositore e direttore d'orchestra Fabrizio Fontanot saranno i protagonisti della 70esima cerimonia del premio Epifania Tarcento. La consegna in sala Margherita alle 20.45. I presepi potrebbero essere definiti un genere artistico a sé. A Spilimbergo la natività è stata reinterpretata attraverso l'arte musiva, le figure sono infatti rivestite di mosaici, una parte della scena si trova a Roma, nel sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. Roma non ospita soltanto il presepio di Grado in piazza San Pietro, ma anche un'altra opera di artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia, la Natività di Mosaico di Spilimbergo. Si trova sul sagrato della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, che custodisce la reliquia della Culla di Gesù. Qui il primo dell'anno si è celebrata l'apertura della Porta Santa per il Giubileo, già migliaia i visitatori. Di questo presepe colpiscono i colori così intensi e carichi di gioia, uno splendore di ori e smalti di vetro veneziano impreziositi da smalti trasparenti. E poi l'emozione così vera e umana negli sguardi di Maria, Giuseppe e Gesù, la tenerezza, l'ingrediente segreto dell'artista Alessandro Serena, presidente della Fondazione Cultura Imago Musiva di Spilimbergo. E la città del mosaico ospita in Piazza Duomo il presepio di mosaico composto da 50 figure a grandezza naturale rivestite da entrambi i lati. Sarà esposto fino al 9 febbraio con visite guidate dall'artista tutti i pomeriggi. Il presepio cresce ogni anno con l'aggiunta di nuove figure grazie al sostegno di enti pubblici e privati, laboratori mosaicisti affermati e giovani apprendisti. Dietro ogni figura ci sono circa 45 giorni di lavoro. Rivoluzionaria l'idea di costruire le figure di mosaico nello spazio vuoto, libere da ogni architettura, così da potersi calare in mezzo ai visitatori, che si stima saranno 50.000 quest'anno a Spilimbergo, in crescita rispetto all'anno scorso. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 230 migliori promesse della scherma mondiale sono già a Udine, al quartiere fieristico, per partecipare al trofeo Alpe Adria, valido come tappa della Coppa del Mondo di scherma Under 20. Più di 1.800 incontri in un giorno solo, oltre 42 paesi rappresentati per un totale di 231 atlete, giovani promesse della scherma. Sono alcuni numeri della tappa italiana di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, arrivata alla sua 19esima edizione e iniziata oggi a Udine, negli spazi del quartiere fieristico di Martignacco. Per il territorio udinese un appuntamento ormai fisso, cominciato nel 2005 a Legnano Sabbiadoro e continuato nel tempo. Il primo giorno dedicato alle gare individuali, il secondo agli incontri tra squadre. squadre e poi la novità delle gare di sciabola del circuito europeo Under 23 maschile e femminile che si terranno domenica e lunedì. Per il commissario tecnico della spada italiana Dario Chiodà, da questi eventi passano i campioni e le campionesse di domani. In pedana sono 20 in totale le azzurre, tra cui le quattro punte di diamante Paulis, Orso, Madrignani e Cristofoletto, che compongono anche la squadra della nazionale. A loro il compito di portare avanti la tradizione ricca di medaglie della scherma italiana. L'obiettivo è sempre vincere, ci spiega Cristofoletto, anche se allenarsi durante le vacanze è più difficile. Per ridurre l'impatto ambientale di questo incontro, l'edizione ha anche ricevuto la certificazione Carbon Neutral. Annulla le emissioni prodotte con gli spostamenti internazionali delle diverse squadre con l'acquisto di crediti per iniziative sostenibili nello sviluppo di energie rinnovabili. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo al calcio di Serie A. L'Udinese inizia l'anno in trasferta sul campo dell'Hellas Verona con fischio d'inizio alle 20:45. Rugnaic potrà schierare anche il difensore francese Omar Solé, che dal primo dell'anno fa ufficialmente parte della rosa. Chiuso il 2024 con il pareggio casalingo contro il Torino, che ha lasciato un po' di amaro in bocca per la rimonta subita, il nuovo anno dell'Udinese si apre alle 20:45 sul campo del Verona, un match nel quale i bianconeri vogliono consolidare la striscia positiva inaugurata dalla vittoria esterna a Firenze, arrivata all'antivigilia di Natale, puntando magari a replicarla, così da chiudere il girone d'andata. Quella di stasera è infatti l'ultima partita prima del giro di boa, a 27 punti. Quota che permetterebbe di guardare la seconda metà della stagione con molta più tranquillità rispetto a tante delle ultime stagioni, in cui la salvezza è arrivata in extremis. A pensarlo sono anche i quasi 1700 tifosi che seguiranno la squadra sugli spalti del Bentegodi, in una trasferta sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due piazze. A spargere cautela ci pensa comunque il tecnico bianconero, Kostas Rouniaich, che nella conferenza stampa della vigilia ha messo in guardia i suoi riguardo alle insidie dell'Hellas. È una squadra che ribalta in maniera molto velocemente il campo, che è molto intensa per quanto riguarda i duelli, una squadra aggressiva. Si tratta di una squadra che non è prevedibile, in quanto ha vinto contro il Napoli, la Roma, il Bologna. Lotteremo tutti insieme come squadra, cercheremo di mettere sul campo, portare sul campo il nostro modo di giocare e speriamo di poter vincere questa partita. Quanto alla formazione, per il tecnico tedesco non è ancora arrivato il momento del tridente, che necessita di equilibri da provare e costruire nei prossimi mesi. In attacco, dunque, spazio a Lucca e Toven, con Sanchez che partirà dalla panchina, mentre in difesa giocheranno Christiansen, Bijol e Touré, con il debutto del nuovo acquisto Solé, che potrebbe arrivare a gara in corso. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C la Triestina inizia l'anno sul Prato del Rocco alle 15 contro la Clodiense. È necessario recuperare punti in classifica. Attilio Tessera è convinto che la squadra ha lavorato bene in questo periodo, con D'Urso che ha ripreso ad allenarsi con un percorso personalizzato e potrebbe già essere in grado di dare il proprio contributo per una frazione della partita. Sarà anche l'occasione per il debutto in maglia labardata del nuovo attaccante Udo, appena arrivato da Trapani. Di fronte, dice Tesser, troveremo una squadra che parte molto forte e aggressiva, delle grandi motivazioni, ed è sulle motivazioni che non dobbiamo cadere. Le nostre sono doverosamente altrettanto forti e dobbiamo essere pronti a battagliare dal primo secondo. Passiamo allo sci. Caterina Sinigoi sarà la prima triestina a partecipare alla gara di slalom di Coppa del Mondo di sci a Kranjska Gora, in programma domani, in cui Sinigoi gareggerà con la maglia della nazionale slovena. La 21enne di Aurisina, che è cresciuta sportivamente allo sci club Devin, dalla scorsa stagione è passata al club Nova Gorica ed è stata inserita nella nazionale slovena B. Ora partecipa alle gare europee. Nelle scorse settimane si è guadagnata la qualificazione all'interno della nazionale slovena per partecipare alla sua prima gara di Coppa del Mondo di sci. Al via la corsa della Bora, oggi in partenza gli atleti in corsa per le due distanze più lunghe, mentre domenica sarà la giornata con le premiazioni a Sistiana, Porto Piccolo. Anche quest'anno il numero di iscritti supera l'edizione precedente, come ha spiegato il presidente dell'ASD Sentiero 1 e direttore della corsa della Bora, Tommaso De Mottoni. Abbiamo raggiunto i 3.000 iscritti, mai così tanti. Gli atleti sono ogni anno più numerosi e possiamo dire che abbiamo avuto 10 edizioni da record. Sicuramente dal prossimo anno dovremo iniziare a mettere dei limiti alle iscrizioni. Le gare vanno dall'inclusiva 5 km all'eroica dei 105. Tra i top runner che correranno la gara regina, cioè i 105 km, ci sarà lo chef trentino Marco Gubert e la ricercatrice triestina Nicole Guidolin. Passiamo agli spettacoli. Il meglio del teatro canzone di Gaber e Iannacci è in programma sul palco del Teatro Miela di Trieste alle 18. In scena la formazione di attori e musicisti Yaga Pirates, che propone anche un omaggio a Lelio Luttazzi, Giorgio Streller e Nereo Rocco. Frontman di scena Stefano Annoni, alter ego di Iannacci, che interpreta gli onirici dialoghi con l'amico di sempre Giorgio Gaber. In scena l'attore, cantante e musicista Luca Rodella, che firma anche regia e drammaturgia. E parliamo delle rubriche della nostra TGR. Domani, dopo il giornale radio delle 8.30, su queste frequenze sarà trasmessa la rubrica Vita nei campi. Sentiamo i temi. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani ha in apertura l'aumento del prezzo del latte dopo anni di magra per gli allevatori. A seguire la notte dell'Epifania nella campagna friulana di un tempo con Angelo Floramo, l'impatto degli pneumatici del trattore sul terreno nella rubrica delle macchine agricole. E ancora il pino grigio, che copre un quarto del vigneto regionale, frutta secca, meglio con il guscio, consigli di conservazione, l'ardisia crenata, eleganza e portafortuna tra foglie lucide e bacche rosse. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. E ancora domani sulla terza rete televisiva Rai alle 11.05 andrà in onda la rubrica Est-Ovest, curata dalla nostra redazione e dedicata ai paesi dell'area balcanica. E con anticipazione della scaletta. La decisione dell'Ucraina di interrompere il flusso del gas russo sta cambiando anche i rapporti tra la Moldavia e i separatisti filorussi della Transnistria. In Croazia l'attuale capo dello Stato, Zoran Milanovic, stravince nel primo turno delle elezioni presidenziali. In Slovacchia l'associazione Zestavon ha avviato programmi per sostenere lo sviluppo neurocognitivo dei bambini della comunità Rom. I mulini automatici di Pardubice, una delle meraviglie architettoniche e dell'archeologia industriale della Repubblica Ceca. Joe Magarac, il mitico eroe proletario degli immigrati croati e serbi che lavoravano nelle ferriere di Pittsburgh. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. E con questo chiudiamo questo nostro giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Mauro Cumina, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.